Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Sembra proprio che in Italia fare informazione sia sempre più difficile, finché entrano sotto tiro i giornalisti che da anni si occupano di questioni legate alla legalità, alla mafia, al terrorismo. Bah, può forse esserci e starci questo tipo di ragionamento, anche se in un paese degno di questo nome certe cose non dovrebbero accadere. Ma fare informazione in Italia è diventato difficile anche per chi con una semplice telecamera riprende ciò che è. E quindi si va sotto tiro, si va sotto la minaccia di chi non accetta che dei redattori giovani, bravi, che ce la mettono tutto per fare il proprio mestiere, si devono da fare per descrivere ciò che vedono, che è il ruolo di un giornalista. Ad essere sotto tiro, e devo dire che me l'ha segnalato l'amico Alberto Spampinato, che voi sapete, abbiamo avuto già nostro ospite, è il quirinalista per l'ANSA, ma soprattutto è responsabile di Ossigeno per l'informazione, che mi ha segnalato il caso del clandestino. Vi dico subito il sito internet ilclandestino.info. Che cos'è? È un mezzo di informazione del territorio di Modica che ha fatto una bellissima inchiesta. Ha portato le telecamere nell'ospedale di Modica. Ebbene, soltanto per aver fatto questo, ora questa redazione è sotto la minaccia di una querela. E per parlare di questo noi abbiamo il direttore del clandestino, che è Pippo Guerrieri. Buongiorno Guerrieri. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, voi avete fatto una video inchiesta nei sotterranei dell'ospedale maggiore di Modica. Che cosa avete trovato? Sì, praticamente c'è da precisare che è stata visionata l'ala nuova, cioè questo ospedale ha un'ala costruita nuova per ampliare i servizi, eccetera, che dal 2006 è ferma, è stata completata, non è stata mai messa in funzione. Nei bassi di quest'ala nuova sono state trovate delle situazioni molto sconce, in particolare una discarica in cui c'era di tutto, una discarica in cui si sono trovati da apparecchiature più o meno abbandonate, computer, sedie a rotelle, altre cose, assieme a medicinali scaduti, liquidi tossici, apparecchiature ancora impacchettate, non confezionate, non aperte. Quindi voi avete testimoniato come meglio non si potrebbe, perché avete portato una telecamera e avete registrato. Certamente non è che ce l'avete messe voi le cose che avete registrato, giusto? Che avete ripreso? Assolutamente. Ecco. Lì, tra l'altro ci vorrebbe molto tempo per metterle, perché era veramente pieno. Ovviamente la mia è soltanto una provocazione paradossale. Ma come l'ha presa l'ospedale di Modica? Qui veniamo al dunque. Purtroppo vedi, i manager di queste strutture, che dovrebbero essere persone messe lì perché sono a servizio dei cittadini, in strutture pubbliche, invece la prendono come se fossero stati attaccati personalmente. Hanno fatto loro un comunicato stampa in cui, molto pesante, in cui non solo accusano i ragazzi che sono andati con la telecamera di essersi introdotti abusivamente in quest'area non aperta al pubblico e quindi di avere violato anche la proprietà privata sostanzialmente, e in maniera clandestina, di avere filmato in maniera faziosa, di avere denigrato l'immagine della sanità, e quindi hanno reagito come se si stesse buttando fango sulla sanità ebrea. Allora intanto dico, l'ospedale maggiore di Modica avrà, se lo ritiene opportuno, noi siamo qui, il diritto di replica, quindi potrà raccontare la sua, ma intanto sentiamo chi invece questo stato di cose ha documentato. Guerrieri, mi interessa sapere, ma la popolazione di Modica come ha reagito? Perché voglio dire, è bello dire siamo tutti contro l'illegalità, siamo tutti per la legalità, no? Poi ognuno in realtà si fa i fatti suoi. Allora, qual è stata la reazione dei cittadini di Modica? Allora, i cittadini di Modica, noi abbiamo avuto parecchia solidarietà, perché poi tra l'altro questo materiale filmato è andato sul nostro sito, è andato su YouTube, ma è stato poi ovviamente pubblicato sul giornale cartaceo, sul mensile, e chiaramente ha creato una certa situazione, perché intanto la gente non si aspettava che una struttura nuova, tra l'altro abbastanza all'avanguardia, poi potesse avere questa realtà completamente in contraddizione con l'immagine, eccetera. Certo. Ci sono tutti i posti degli interrogativi su quali possono essere i livelli di sicurezza e di igiene in un ospedale, perché per esempio c'erano tutta una serie di stanze invase da liquami, da liquidi, comprese le stanze dei pannelli elettrici, dove c'era tutta, diciamo, certo, insomma, uno stato di abbandono. Quindi giustamente c'è un allarme diffuso rispetto a queste cose, che questo non significa buttare fango sulla sanità. Assolutamente no. Allora, io ringrazio Pippo Gurrieri per la sua testimonianza. Non è buttare fango, ma è testimoniare. L'ospedale Maggiore di Modica, se vuole, avrà ovviamente il diritto di dire la sua. Nel frattempo io ringrazio in regia Peter Bescapè, in studio Laura Fagin e Roberto Calullo. Nel ricordarvi la mail sottotiro@radio24.it, vi auguro una buona giornata.